Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ben trovati anche da Deborah Rosciani e da Salva Danaio, oggi e domani in diretta da Bari, dalla Fiera del Levante, da dove parleremo di lavoro. La ricerca di un impiego è percepita come un'impresa sempre più difficile per i neolaureati alla ricerca del primo lavoro, ma anche per chi in età più matura si trova nella necessità di reinserirsi o reinventarsi completamente, di ricollocarsi sul mercato del lavoro. La crisi si fa sempre più acuta, avete sentito anche nel giornale radio i dati dell'OCSE, le stime anche del Centro Studi di Confindustria, che parla di mercato del lavoro imballato e occupazione ancora infrenata. Eppure le professionalità introvabili e richieste dal mercato del lavoro ci sono, motivo in più per essere sempre aggiornati e orientarsi in maniera consapevole al momento della scelta del proprio percorso formativo, considerando poi anche che una volta trovata l'azienda i passaggi e le fasi di inserimento sono sempre più complesse e diversificate, ed è diventato appunto ormai fondamentale avere le idee chiare sulle novità normative che riguardano gli intermediari e la disciplina di contratti e tirocini. Questi temi sono stati approfonditi lunedì scorso sulla guida a trovare lavoro del Sole 24 Ore che noi oggi vi ripresentiamo, ma soprattutto tutto questo è al centro del padiglione istituzionale della Regione Puglia, nel quale peraltro noi ci troviamo proprio anche collocati come staff radiofonico, perché proprio in questo padiglione istituzionale sono stati presentati tutti i progetti, sono state presentate tutte le iniziative che sono state contemplate, che sono contemplate nell'ambito del piano straordinario del lavoro predisposto dall'amministrazione appunto regionale pugliese. Noi di tutto questo parleremo questa mattina con la dottoressa Elena Gentile, assessore al welfare della Regione Puglia, che saluto perché è qui con me negli studi appunto di Radio 24, che condividiamo peraltro con tutto il mondo radiofonico che partecipa a questo evento. Dottoressa, benvenuta e grazie. Grazie a lei, un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori peraltro, e radioascoltatrici. Devo dire che proprio a quest'ora sarebbe stata prevista la conferenza stampa di presentazione dei nuovi interventi a sostegno dell'occupazione, che per essere presente a questa iniziativa di Radio 24 l'assessore ha organizzato per le 13 la conferenza stampa, pertanto ci darà tutte le notizie, possiamo dire in anteprima, fino alle 13 mondiale, è tutta nostra, approfitteremo diciamo, di questa importante occasione per, come dire, socializzare un'esperienza, per far conoscere meglio anche nei dettagli un cantiere che è nato qui in Puglia, in una regione del Mezzogiorno, che oggi, voglio dire, grazie ai risultati verificati, per davvero rappresenta un'esperienza singolare. Certo, possiamo anche dire agli ascoltatori pugliesi che non possono prendere parte in questi giorni alla Fiera del Levante, quindi non possono prendere direttamente contatto con le vostre iniziative, che possono chiamarci questa mattina all'800 24 00 24 se volessero togliersi qualche curiosità su questo progetto che è molto imponente e molto importante, rivolto alle persone che sono fuori dal mercato del lavoro da un po', coloro che non sono mai stati occupati, alle donne che devono ricollocarsi dopo la maternità. Ci sono tante sfaccettature, tutte estremamente importanti. Per tutte le altre domande invece sul trovare lavoro e tutte le mosse vincenti per la caccia al posto giusto, questa mattina è a nostra disposizione anche consulente del lavoro, esperto del Sole 24 Ore su queste tematiche, è uno degli autori della guida che appunto è uscita lunedì scorso, la bussola per l'assunzione. Ringrazio e saluto Alessandro Rotaporta in collegamento telefonico. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie. Allora, ho dato il numero di telefono per intervenire, 800 24 00 24, ci potete anche scrivere al 349-238-6666 i vostri sms. Come sempre, prima di partire, una rapida finestra sull'andamento delle contrattazioni in borsa questa mattina. Rivediamo il segno più su tutte le piazze finanziarie, abbiamo Parigi in rialzo di 2 punti, Francoforte lo stesso in rialzo di quasi 2 punti, Milano più 1,66% sul FTSE MIB. Stanno andando piuttosto bene i titoli del comparto industriale, che nei giorni scorsi con i titoli bancari hanno davvero sofferto molto. La Galassia Fiat stamattina ad andare piuttosto bene, più 4,66% per i titoli SPA, Pirelli più 3,43%, ancora in corsa STM un po' tutta la Galassia Finmeccanica dopo le notizie che hanno riguardato ieri Ansaldo, forse pronta ad essere ceduta agli americani di General Electric. I titoli Ansaldo guadagnano anche oggi 3 punti percentuali, mentre Finmeccanica prese di profitto, il titolo cede il 2%. UbiBanca il peggior titolo, meno 2,66%, euro su dollaro a 1,3805. La borsa oggi molto velocemente, perché non voglio indugiare oltre, non voglio perdere tempo, il tema di stamattina è troppo importante appunto per non raccontarlo nel dettaglio. Assessore Elena Gentile, mi sono collegata, ce l'ho davanti a me, al vostro sito internet www.sistemapuglia.it e vedo proprio la presentazione che avverrà tra poco della conferenza stampa, i nuovi interventi a sostegno dell'occupazione. Qual è il vostro piano? So che prevedete intanto un maxi pacchetto di finanziamenti per 340 milioni di euro? Detto sì, uno sforzo diciamo rilevante, oltre 350 milioni di euro per un numero altrettanto rilevante di misure, sono 53 misure che sono state pensate, come dire, mettendo al centro le persone, anche la loro vita quotidiana, nel senso delle difficoltà che soprattutto le giovani generazioni, i ragazzi, le ragazze oggi incontrano nel definire il loro progetto di vita, pensando in modo particolare alle donne. C'è un gap insopportabile che separa ancora il Mezzogiorno dal resto dell'Italia, anche in un contesto complessivo di grande difficoltà, ed è quello del numero di donne occupate, ma soprattutto della platea importante di donne inattive, cioè di quelle donne che non ci provano, che non hanno più la voglia, la forza, la determinazione di mettersi in gioco e di mettersi in discussione, offrendo il loro patrimonio di esperienze, la loro creatività. E che magari sono anche iperqualificate. E che sono molto spesso anche molto qualificate. Il numero di donne in Puglia che raggiunge il top del percorso di formazione è elevatissimo. Le ragazze sono più brave, studiano meglio, studiano di più, concludono il loro percorso con il massimo dei voti molto spesso, però c'è una sorta di incantesimo che non riusciamo, voglio dire, ad infrangere, quello della difficoltà dell'ingresso nel mondo del lavoro. Perché le aziende non ne vogliono, perché poi la donna prima o poi fa il figlio, è sempre perché, il consueto perché per le donne purtroppo, portando sulle loro spalle diciamo la tradizione del lavoro di cura, sono ovviamente più esposte al rischio, tra virgolette, di una gravidanza o al rischio, per esempio, della presa in carico di un congiunto, di un parente che, voglio dire, incontri difficoltà nella propria gestione, che perda l'autonomia. Certo. E allora l'impresa ovviamente cerca, ecco, di reclutare soggetti ovviamente prevalentemente di sesso maschile che tradizionalmente non hanno la responsabilità del lavoro di cura. Quindi come avete invogliato le aziende? Il punto, diciamo, sul quale noi abbiamo voluto incentrare le dinamiche delle nuove politiche attive per il lavoro è appunto questo: creare le precondizioni perché le donne possano finalmente entrare nel mondo del lavoro e, una volta entrate nel mondo del lavoro, possano rimanervi, conciliando anche la vita privata. Conciliare la vita privata. Quindi 5 anni qual è? Di lavoro, norme, leggi, ma soprattutto strumenti ed investimenti che hanno popolato l'intero territorio regionale di un numero incredibile di infrastrutture. Abbiamo realizzato circa 200 nuovi asili nido che, diciamo, vedevano la Puglia assolutamente indietro rispetto alla graduatoria regionale delle regioni più attente. Oggi possiamo dire con sufficiente soddisfazione, anche con un pizzico di orgoglio, se è ancora possibile inorgoglirsi del lavoro, diciamo, politico istituzionale, che abbiamo pareggiato in tempi assolutamente rapidi il livello di qualità e di quantità di servizi che contraddistinguono le regioni italiane storicamente appassionate ai temi del welfare e della conciliazione. Mm-hmm. Penso ai numeri dell'Emilia Romagna, penso ai numeri della Toscana. Oggi la Puglia si staglia tra le regioni meridionali per aver rapidamente risalito questa scala, questa graduatoria che la vedeva, diciamo, in fondo. Cosa avete fatto invece con le aziende? Avete deciso di erogare finanziamenti per incentivare le assunzioni appunto femminili o che cos'altro? La dote occupazionale, che diciamo oggi è tra i tanti bandi quello che ha avuto, come dire, un riscontro, posso dirlo, entusiasmante, ha previsto una premialità aggiuntiva per le assunzioni delle donne, così come ha previsto una premialità aggiuntiva per le assunzioni di persone con diverse abilità, per i giovani storicamente inoccupati, cioè la platea dei soggetti fragili, tra virgolette, una definizione diciamo che può non piacere, ma che rientra nella, come dire, nella elaborazione anche della programmazione comunitaria, ha goduto di una situazione di vantaggio, e questo ha consentito a moltissime aziende di pensare, voglio dire, che le donne possono essere non un peso, ma un valore aggiunto. Su 1700 nuove occasioni di lavoro, parliamo di assunzioni a tempo indeterminato, 700 sono di donne, e quindi è un grande risultato che premia una politica che è stata ossessionata dal tema dell'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, anche per una considerazione banale: ogni posto di lavoro conquistato da una donna ne genera automaticamente altri due, perché ovviamente entra in campo il tema del lavoro di cura, dell'utilizzazione dei servizi, voglio dire, è un moltiplicatore, in sostanza, è uno straordinario moltiplicatore di opportunità occupazionali. Allora, assessore Gentile, ci dobbiamo fermare perché abbiamo già la prima pausa, poi coinvolgo anche Alessandro Rotaporta. Leggo anche ci sono dei messaggi che ci stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori. Federico dall'Alta Italia, e dico così solo perché siamo a Bari oggi, tutti così impegnati a trovare lavoro per i meridionali. Federico, siamo in Puglia e raccontiamo questa esperienza, ci capitasse un'altra fiera come ci è successo per il Vinitaly, abbiamo per esempio raccontato anche di esperienze molto felici del Veneto. Un 23enne neolaureato in fisica friuliano, come me non lo piglia nessuno, ci mancherebbe altro che in Friuli appunto non ci siano delle opportunità occupazionali. E magari poi ci facciamo raccontare da Alessandro Rotaporta come lei può individuare l'occasione di lavoro giusta per sé, appunto. Un altro ascoltatore ci scrive invece che è stato lasciato a casa dalla sua azienda, sorprendentemente ho trovato diverse opportunità in Irlanda. Quello che noi vorremmo scoraggiare, vorremmo anche che i nostri ragazzi rimanessero a lavorare nel luogo dove sta la propria famiglia, a meno che non si tratti di una scelta precisa, ricercata per anni. Ecco. Abbiamo investito importanti risorse per implementare, voglio dire, il patrimonio di conoscenze, di esperienze, il know-how dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Bollenti Spiriti, che è un programma che ha avuto uno straordinario successo, ha consentito a migliaia di ragazzi di conquistare profili professionali assolutamente, diciamo, inediti. So che avete finanziato progetti originali, insomma. Anche, voglio dire, ma principi attivi, diciamo. Ogni occasione è stata messa a valore per offrire opportunità di lavoro e soprattutto per, come dire, consentire liberamente a ciascun ragazzo, a ciascuna ragazza, di poter costruire il proprio progetto di vita nella sua regione, nella sua provincia, nel suo paese natale, con la sua famiglia. Eccoci ritrovati in diretta dalla Fiera del Levante di Bari, dove anche Radio 24, con la condivisione di altre emittenti radiofoniche, appunto, alla sua postazione per raccontare questa esperienza. Il tema che abbiamo scelto di affrontare in questa puntata speciale della nostra trasmissione è il tema del lavoro, perché siamo proprio nella parte della fiera che ospita il padiglione istituzionale della Regione Puglia, dove viene presentato proprio quest'oggi il piano straordinario del lavoro e anche le offerte delle agenzie, che appunto sono molte, e questo ci dà l'occasione adesso per affrontare il tema degli intermediari e come si può effettuare un buon collegamento anche della propria professionalità, tenendo conto che la manovra economica dello scorso 6 luglio ha ridisegnato la mappa dei soggetti autorizzati appunto alla cosiddetta intermediazione del lavoro. Allora, su questo punto volevo coinvolgere il nostro consulente del lavoro, Alessandro Rotaporta, che conosce molto bene questa materia ed è uno degli autori della guida Trovare Lavoro che è uscita lunedì scorso con Il Sole 24 Ore. Sostanzialmente Rota Porta si è ampliata la platea dei soggetti autorizzabili appunto ad intermediare le professionalità. Non abbiamo più il vecchio ufficio del collocamento, ma adesso abbiamo delle figure molto più diversificate. Sì, diciamo che accanto ai soggetti tradizionali, quindi che svolgono intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, è stato implementato il cosiddetto canale del collocamento privato, in particolare quello degli operatori soggetti al regime particolare di autorizzazione. Sono quei soggetti iscritti in un particolare albo del Ministero del Lavoro che svolgono esclusivamente attività di intermediazione, quindi sono proprio dedicati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, quindi parliamo di, giusto per essere chiari, degli istituti scolastici, delle università, i comuni, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ci siamo anche noi, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, sì. E anche le Camere di Commercio, i gestori di siti internet. Ecco, le novità della manovra di luglio consistono nel aver interconnesso ancora maggiormente questi soggetti con il portale Click Lavoro, quindi quel sito istituzionale del Ministero del Lavoro che proprio funziona da veicolo tra domanda e offerta di lavoro, e soprattutto da parte degli istituti scolastici l'obbligo di pubblicare i curricula dei loro studenti, proprio per favorire questa attività di incontro tra chi cerca e chi offre lavoro. Questa in sostanza è la novità grossa della manovra di luglio, anche se c'è da dire per precisione che manca ancora un tassello, che è un decreto ministeriale che dovrebbe regolare le modalità di iscrizione di questi soggetti all'albo e la loro interconnessione con il portale Click Lavoro, quindi manca ancora un tassellino per completare il quadro. Ecco, naturalmente tutte queste iniziative delle quali stiamo parlando molto spesso le orientiamo verso il mondo come giusto giovanile, chi esce dall'università e magari non ha anche l'opportunità finanziaria di fare un master per specializzarsi ulteriormente, deve subito collocarsi sul mondo del lavoro. Naturalmente ha anche tutta una serie di figure alle quali guardare per poter inserire il proprio curriculum, per poter far conoscere la propria preparazione e quindi capire dove può al meglio collocarsi. C'è però tutta una fetta di mercato che soprattutto si è purtroppo ingigantita negli ultimi anni con la crisi economica e con la crisi del mercato del lavoro, che è quella di persone che hanno, come dire, la middle age, cinquantenni usciti dal mercato del lavoro magari a volte con expertise e professionalità estremamente elevate, che adesso, mi viene da dire con un brutto termine, davvero non sanno dove sbattere la testa. Abbiamo capito che gli intermediari che potrebbero collocarli sono tanti, ma per queste figure c'è grande difficoltà. Sentiamo Giuseppe da Milano per poi commentare questo caso e questa casistica con i nostri ospiti di questa mattina. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Sì, come lei giustamente ha detto e ha introdotto come tema, c'è quello dei cinquantenni che purtroppo sono usciti fuori dal mercato del lavoro. Io purtroppo sono uno di quelli. Noi parliamo sempre di giovani, io sono d'accordissimo di dare spazio, molto spazio ai giovani, però i giovani purtroppo a volte sono figli a sua volta di persone che hanno l'obbligo di mantenerli e di farli crescere. Purtroppo queste persone che devono adempiere a questo compito a loro volta sono costretti a stare fuori dal mercato del lavoro, quindi è un po' anche un gatto che si morde la coda, e questo è un aspetto importantissimo per quanto riguarda la nostra società che attualmente vede fuori dal mercato del lavoro, con persone che vanno dai 40 ai 55 anni, più di variate centinaia di migliaia di persone in Italia. Giuseppe, le posso chiedere in che ambito produttivo lavorava? Sì, io ho lavorato per più di 22 anni nel settore dell'industria farmaceutica, che purtroppo anche qui è legata a dinamiche, a fattori socio-economici, politici che hanno influenzato molto lo sviluppo e quindi anche la crisi poi che c'è stata, al di là di quello che può essere l'aspetto morale di moralizzazione dell'azienda, dei modus operandi e quant'altro, dei farmaci generici che poi diciamo da una parte dovevano trovare in Italia un gradimento notevole, questo non c'è stato, poi c'è stata un'altra crisi fortissima legata alla ricerca, insomma una serie di cose hanno fatto sì che l'industria farmaceutica dal 2003-2004 abbia messo, dopo l'avvento dei generici, abbia messo fuori dal caso del lavoro molti livelli, diciamo. Giuseppe, io la ringrazio per la sua testimonianza. Tra l'altro devo anche dirle che se lei va a leggere il Trovare Lavoro, la guida uscita lunedì scorso con il Sole 24 Ore, il Sole ha fatto questa top 10 degli introvabili, cioè le 10 figure professionali più difficili da trovare per le imprese nel 2011 secondo Unioncamere. Al primo posto risulta il farmacista. La figura del farmacista è da anni nella top 10 delle figure con forte difficoltà di reperimento da parte delle aziende. Lui non era un farmacista, era però ricompreso nel settore, quindi davvero esperienze stridenti secondo quello che cerca il mercato e secondo quello che poi il mercato fa, perché le professionalità che lavorano in questo ambito le mette fuori, almeno quelle di un certo livello. Che ne pensa, assessore Gentile, della categoria dei cinquantenni fuori dal mercato del lavoro? Il vostro piano straordinario per il lavoro ha pensato anche a questi? Ovviamente sì, non potevamo dimenticare una platea difficile, costituita da coloro i quali, diciamo, nel pieno della maturità dell'esperienza lavorativa per le crisi di mercato, anche per la ristrutturazione di pezzi, diciamo, dell'industria e quindi della commercializzazione. Faccio tesoro del signore che è intervenuto, probabilmente era un informatore farmaceutico. All'indomani dell'introduzione del farmaco generico, mm-hmm, era ovvio, diciamo, scontato. Lei tra l'altro è una pediatra e conosce medico, molto bene quindi questo conosco il settore, era quasi scontato che questo sistema fosse costretto, diciamo, ad espellere un pezzo rilevante dell'organizzazione e della struttura. Noi abbiamo pensato ad accompagnare la platea dei manager, ma anche, voglio dire, dei lavoratori non estremamente, come dire, professionalizzati, nella ricerca di una nuova opportunità di lavoro, che peraltro in qualche maniera è anche facilitata dagli strumenti normativi, perché le aziende hanno un abbattimento notevole, sensibile dei costi se assumono personale che è collocato per esempio nelle liste di mobilità, se gode della cassa integrazione, cioè degli strumenti cosiddetti, diciamo, di ammortizzazione sociale nelle situazioni di crisi. Anche per loro abbiamo previsto percorsi di formazione che noi abbiamo voluto sempre più aderenti, appunto, alle richieste del mercato. Lei elencava una delle figure professionali, diciamo, di competenza che oggi il mercato richiede, ma potremmo allargare l'orizzonte. Progettisti metalmeccanici al secondo posto, terzo posto infermiere, quarto posto consulente fiscale, beh, direi con la manovra recente poi c'è veramente da mettersi le mani nei capelli. Sviluppatori software, ho fatto la top 5 per la verità, le prime 5 figure professionali più ricercate. Posso rapidamente, certo, diciamo, socializzare una mia riflessione sul tema, appunto, di alcune lauree brevi, quella per esempio relativa a scienze infermieristiche. Mm-hmm. È paradossale, quindi inaccettabile, che un paese che registra una carenza spaventosa di alcuni livelli professionali non preveda di implementare il numero degli accessi alle scuole di formazione e di specializzazione. L'Italia è un paese senza medici, senza infermieri professionali. Continuiamo a tenere in piedi quel muro impenetrabile, costituito dal numero chiuso. Allora, una politica capace di essere, voglio dire, in sintonia con il paese, con le esigenze del mercato, ma anche della pubblica amministrazione, non può non assumere decisioni che poi alla fine, come dire, costruiscono vere opportunità di lavoro. È una riflessione che io penso debba accendere un dibattito tra gli ordini professionali, ma anche nell'opinione pubblica. Migliaia di ragazzi cercano di entrare in quel segmento del mondo di lavoro. e rimangono puntualmente escluse. Allora, leggo un paio di messaggi ai due ascoltatori. Paolo ci dice che sto facendo un'intervista tremendamente autoreferenziale perché le sto facendo raccontare l'esperienza della Puglia. A noi non interessa il suo commento, Paolo, perché a noi interessa che le persone che in Puglia, perché oggi siamo qua, io sono marchigiana e abito a Milano, per cui le pare cosa mi possa interessare personalmente di capire come va il mercato del lavoro pugliese, visto che sto da tutt'altra parte. Ci interessa invece che una bella regione come questa, piena di stimoli e di iniziative, possa rendere più vivace il suo mercato del lavoro e possa far conoscere le opportunità che ha. Per cui oggi il nostro obiettivo è far conoscere tutte le opportunità che si aprono per le persone che sono senza lavoro, che non riescono a portare a casa lo stipendio e che per questo motivo mettono in difficoltà tutta la famiglia e quindi tutto l'ambito sociale di appartenenza. Detto questo, invece, un commercialista di Milano fa i suoi complimenti agli amministratori pugliesi, tanto di cappello appunto per questo progetto, Luigi, e così noi lo salutiamo. Detto questo, che sono poi commenti che io tante volte sono costretta a fare ma che non vorrei mai fare, parleremo e chiederemo ad Alessandro Rotaporta quali sono i meccanismi con i quali una persona di 50 anni può ricollocarsi sul mercato del lavoro. Un altro ascoltatore ci chiede: e gli agronomi non se li fila nessuno? Nel settore dell'agricoltura è veramente difficile trovare lavoro, anche questo è un settore molto importante per la Puglia. Assessore Gentile, poi magari ci dice un po' qua come mi state, come vi state muovendo. Eccoci ritrovati con Salva Danaio in diretta dalla Fiera del Levante di Bari. Parliamo di lavoro oggi, di tutte le iniziative messe in campo da questa amministrazione che vengono presentate oggi proprio a Bari, il piano straordinario che vengono presentate oggi alla Fiera del Levante, il piano straordinario del lavoro. Ci sono tante iniziative, purtroppo non riusciamo ad elencarle tutte, abbiamo cercato così di dare visibilità sicuramente le più importanti, insieme all'assessore Elena Gentile, assessore al welfare dell'amministrazione appunto regionale pugliese. Alessandro Rotaporta, un commento sul caso che abbiamo ascoltato prima, 50 anni e il problema del ricollocamento a quell'età. Dove si va a cercare qualche opportunità? Ma intanto c'è da dire che questi soggetti, quindi lavoratori espulsi dai cicli produttivi o sospesi proprio per via della crisi che sta vivendo il nostro paese, possono trovare uno spunto per essere ricollocati attraverso le dote contributiva che possono portarsi dietro, quindi le aziende che li assumono possono avere degli incentivi a seconda dello status in cui si trovano, quindi disoccupati piuttosto che collocati in mobilità o sospesi in cassa straordinaria, sia essa ordinaria o straordinaria. Anche ad esempio per gli over 50 ci sono dei progetti, un progetto del Ministero del Lavoro che viene attuato in collaborazione con l'Agenzia Italia Lavoro, che consente addirittura ai dirigenti di essere ricollocati dando delle incentivazioni, dei bonus alle aziende che li assumono. I canali sono quelli che abbiamo elencato prima, quindi o le agenzie private o i centri per l'impiego che svolgono anche queste attività di collocamento. Una nota, un'opinione, se posso aggiungerla, benissimo, certo. Le iniziative regionali, perché hanno diciamo il polso sul territorio di quali sono le esigenze delle imprese. Per esperienza un po' che spazia un po' sul territorio nazionale, sicuramente oggi quello di cui hanno bisogno le aziende sono meccanismi strutturati di riduzione del costo del lavoro, perché questo comunque è un peso che frena molto la rioccupazione, frena molto nuove assunzioni. Ci sono gli strumenti, qualcuno oggi l'abbiamo elencato, quindi il recupero di persone che sono state espulse tramite gli incentivi legati agli ammortizzatori che questi soggetti percepiscono, però sono spesso strumenti spot, magari a scadenza, quindi servirebbe effettivamente un impianto che rendesse strutturali determinati contratti e gli incentivi legati ad essa. Ecco, questo forse dovrebbe essere la linea su cui puntare per effettivamente favorire un rilancio dell'occupazione. Sentiamo intanto, ancora proseguendo nel racconto dell'esperienza pugliese, c'era un ascoltatore che poi nel corso della trasmissione abbiamo perso, da Bergamo. Sergio ci chiedeva, assessore Gentile, i finanziamenti che state erogando per assumere persone a vario livello, con varie modalità, che effetti hanno appunto sulle assunzioni? Voi avete tra l'altro la possibilità di monitorare il comportamento delle aziende che poi accedono ai vostri bandi in tempo reale, con un sistema che è possibile vedere proprio collegandosi al sito Sistema Puglia, è un termometro in tempo reale molto interessante. Assolutamente innovativo, anche voglio dire lo strumento che abbiamo messo a disposizione per verificare l'output delle politiche messe in campo, che hanno dato risultati incoraggianti, non voglio usare diciamo altri aggettivi, certamente incoraggianti, perché nell'arco di pochissimo tempo, il 20 giugno è stato diciamo il giorno in cui abbiamo aperto i battenti, nel giro di un paio di settimane eravamo già nelle condizioni di poter elencare con precisione le aziende che avevano fatto istanza, ma anche il numero e la qualità degli operatori assunti, nonché anche il genere di appartenenza, il territorio di provenienza, voglio dire una situazione assolutamente inedita che ci consente anche in corso d'opera di modificare, di correggere eventuali, come dire, errori di impostazione che possono ovviamente, come dire, accadere. Che risultati avete ottenuto? Quindi quali aziende hanno chiesto più personale? Di che cosa c'è bisogno in Puglia? Quali sono le professionalità più richieste? Le aziende che ancora riescono comunque a fare assunzioni? Allora, certamente il settore delle telecomunicazioni ha sbancato, nel senso che 566 assunzioni sono avvenute in questo settore. Poi c'è il commercio, il terziario, la logistica, i trasporti, la metalmeccanica, il settore della cooperazione sociale, quindi dei servizi sociosanitari, l'edilizia, certamente non tra le prime, ma con qualche segnale incoraggiante vista la crisi profondissima in cui il settore si trova. Gli studi professionali, anche questa diciamo ritengo una novità nel panorama soprattutto del Mezzogiorno e di questa regione. Benissimo, io guardi, tra l'altro abbiamo parlato tanto, abbiamo detto pochissimo purtroppo, perché sarebbe necessario veramente parlare ancora per due ore, dato il tema tanto importante, non riusciamo purtroppo, perché devo chiudere entro pochi secondi a dare la parola ad un'ascoltatrice di Chieti, che è un'insegnante, Concetta, io però la saluto e leggo molto rapidamente quello che avrebbe voluto dirci. Liceo Scienze Umane, obbligo inserimento dei curriculum dei ragazzi, che senso ha inserirli se i ragazzi si illudono perché ridotti di competenza? Avrebbe probabilmente avuto bisogno di essere un po' esplicitato meglio il concetto dell'ascoltatrice, così come Walter avrebbe voluto raccontarci che i lavoratori autonomi non si li fila nessuno, ed effettivamente anche lì bisognerebbe pensare forse a programmi di incentivazioni più importanti per gli autonomi. In ogni caso, per tutto quello che non abbiamo detto, potete recuperare la guida del Sole 24 Ore di lunedì scorso collegandovi al sito www.ilsole24ore.com/trovare lavoro, e quindi lì ritrovate tutte le cose che non abbiamo detto, come collocarvi, come scrivere un buon curriculum, come non commettere degli errori ai colloqui di lavoro, perché anche lì è un tema molto importante. Per tutto ciò che attiene, assessore Gentile, alle iniziative pugliesi, andiamo sul sito sistemapuglia.it. Buona conferenza stampa per dopo. Grazie per essere stata con noi. Grazie anche ad Alessandro Rottaporta, Barbara Bianchi per la collaborazione in redazione qui a Bari, Marco Lombardo invece in redazione a Milano, Michele Previato, Davide Ciocia, che sono i consulenti tecnici che ci hanno aiutato in questi giorni, appunto, che ci continueranno ad aiutare dal punto di vista tecnico. Noi con Salvador Danaio ritorniamo anche domani qui dal salone dalla Fiera del Levante, e quindi da Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti.